A tempo di sport con Carlo Genta. Rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero. Yeah, yeah. Rosso nero, rosso nero, shalalala. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'è. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'è. Rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero. Ma solo quello, non è mai stato, diciamo, niente in più, non è mai stato il derby vero, litigando, non c'è mai stato questo. Dopo il mercato credo che sia normale, è un momento che tutti si muovono, ci sono tante chiamate, ci sono tanti contatti, ma credo che sia normale un sondaggio di mercato, è più un studiare il mercato che veramente mettere in piedi una trattativa. Per quello ogni chiamata non volevamo ogni... Buongiorno a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Fabio Cantadone in regia, non volevamo essere trash a tutti i costi, però insomma non possiamo farci nemmeno nulla se in questi momenti in cui parte la festa del Milan. Questa festa molto strana, atipica, festa inedita, si festeggia in maniera posticcia perché è una gioia un po' plastificata, vecchia di una settimana, anche se c'è un sacco di gente in giro per Milano, per il centro di Milano, che accompagnerà il Milan verso questa inutile kermesse con il Cagliari, consegna di coppa sponsorizzata, esibizione di maglietta nuova per la prossima stagione, naturalmente già in vendita. Possiamo farci nulla se tutto questo accade mentre c'è la conferenza stampa di Leonardo, che è stato suo malgrado uno dei grandi protagonisti in contumacia peraltro della settimana. Se volete torniamo a parlarne, 800 24 00 24, però vorrei partire dalla strada, non quella rossonera di questi minuti qui a Milano, ma dalla strada dei giri che abbiamo in giro per l'Italia, il Giro d'Italia, ma anche il giro di Andrea Zorzi, mio abituale compagno di viaggio, che mi ha in questi giorni, in queste settimane, lasciato per altri lidi molto più belli, per il suo Tracce di Sport 2. Da lì partiamo, ciao Andrea! Ciao, ciao, io ti parlo da Cagliari, guarda caso. Una settimana fa mi parlavi da qui, insomma, stai meglio oggi sicuramente. Guarda, ti assicuro, io conoscevo Cagliari un pochettino, ma stamattina ho avuto l'occasione di girarlo anche ieri tra la scuola, l'incontro con gli assessori, stamattina Stadium Sicola, poi siamo andati nella zona del palazzetto, a parte una giornata bellissima. Ma quello che fa veramente impressione è che dove ti giri qui trovi gente abbastanza sorridente, un po' abbronzata perché la stagione bella è molto più lunga che a Milano, o gente che ha a che fare quotidianamente con quello sport di cui spesso si parla, quindi vanno a correre, vanno a nuotare, a pagaiare, è veramente bellissimo. E poi l'Amsicora, che è il nostro luogo dello sport, che non immaginavo fosse veramente il luogo che più di qualunque altro rappresenta la Sardegna, già Amsicora, che era questo guerriero che nel 250 avanti Cristo vinse una battaglia contro i romani alleandosi con i cartaginesi, e che la dice tutta sul desiderio di indipendenza dei sardi, e guarda caso il collegamento quindi tra voglia di essere autonomi e sport è molto molto collegata. E poi ti lascio immaginare la storia del Cagliari che ha vinto il 71-70 e tutto il resto, ma veramente un mix perfetto di bellezza, di impianti fantastici. Senti Andrea, sono solo tracce che stai trovando lì in Sardegna o sono fiori? Fiori no, che ancora profumano, insomma. No, qui c'è tanta roba bella. C'è da dire, come stamattina mi dicevano, che per quanto riguarda gli impianti sportivi, quelli codificati, quindi parliamo di stadi, di palazzetti, di piste di atletica, Cagliari non è cambiata molto dagli anni 70. Però ciò che è sorprendente è che moltissima gente quotidianamente fa uso anche della lunga spiaggia del Poetto, del parco che c'è dove si può correre in salita, perché sennò il Poetto è troppo facile perché è piano. Quindi siamo a questo livello, siamo qui a vedere gente che si muove e fa tanto sport. Poi c'è un mix perfetto, come ti dicevo, anche tra lo sport professionistico e l'altro. Ci sono poi di questi giorni, la notizia pare che abbiano firmato il contratto per fare il nuovo stadio, quello di che Cellino vuole fare vicino all'aeroporto, e il vecchio Sant'Elia sta diventando un luogo che ormai non è più utilizzabile perché non è in buone condizioni, però è diventato quel luogo un luogo molto centrale, quindi appetiti immobiliari che diciamo smuovono parecchie persone. Senti, ti racconto l'ultimissima cosa veloce. Dimmela. La curva sud dell'Amsicora per un sacco di anni è stato considerato il più bel ristorante di Cagliari, mm-hmm, perché la gente andava prima di pranzo con il maialetto e le zucche piene di vino e aspettava che arrivasse la partita alle 3:30 di pomeriggio. E questo lo facevano alla curva sud, e a fianco c'era la curva Belvedere. Sono dei pini bellissimi, alti 8-10 metri, che sono più alti del muro di cinta. La gente saliva su quegli alberi per guardarsi indisturbata la partita. Curva Belvedere. Andrea, ci sentiamo domani. Stammi bene, buon viaggio. Grazie. Ciao. Ad Andrea Zorzi. Posso sentire ancora Leonardo? Un giocatore può essere quello a che caso, può arrivare e dare un qualcosa a un sistema che oggi, se pensiamo a tutti i sistemi che vogliamo giocare, credo che ci sono tutti i giocatori a disposizione. Dopo uno è infortunato, l'altro no. È arrivato per esempio Pazzini, è arrivato perché c'era una situazione di infortunio importante, quella di Milito, e dopo anche un giocatore in prospettiva di futuro, ci mancherebbe altro. Però dico, credo che questa rosa, se tutti sono a 100, cioè, per tanti... Questa settimana purtroppo, più che di festa scudetto, si è parlato di questa idiozia, no? Di questa volgarità assoluta cui Gattuso si è associato, di tutto ciò che ne è conseguito. Ognuno ha detto la sua. È vero che nell'ambito di una festa scudetto, come è stato sottolineato da Moratti, si possono perdere pericolosamente i freni inibitori. È altrettanto vero che nei giorni successivi, quando si torna minimamente più lucidi, secondo me ci si potrebbe comportare anche in un'altra maniera. Non so come la pensate voi, non vorrei stare a spendere tutto il programma per parlare, per riparlare di questi fatti, come è stato fatto in settimana anche troppo, secondo il mio parere. Però, insomma, nei momenti di questa festa scudetto, ripeto, un po' finta, un po' plastificata del Milan, perché dopo una settimana, insomma, mi sembra che anche l'entusiasmo per la conquista del titolo possa essere quantomeno diverso rispetto a quello che c'era una settimana fa. Beh, se volete parlare di tutto questo, siamo qui. 800 24 00 24 è il numero verde. Ci fermiamo ora per il traffico, poi parleremo un po' di Giro d'Italia, ma soprattutto cominceremo a parlare anche con voi. A dopo. Voci dal Giro. Guardate, cari ascoltatori, che inviate pure messaggi 349-238-6666. Non brucia proprio a nessuno il fatto che il Milan abbia vinto con tutto il merito possibile e disponibile questo scudetto. Lo ha vinto con pieno merito, lo ha vinto in maniera chiara, solare. Non fa una grinza questo scudetto. Stiamo discutendo dell'eleganza di altre cose, ma semplicemente per motivi di cronaca indotti, non certo da noi. Per la cronaca, appunto, Giro d'Italia, una prima settimana di giro che si chiude oggi, dopo la partenza di sabato scorso da Torino. È stata una settimana molto difficile, molto complicata, certamente non bella. Se vogliamo drammatica, dal punto di vista non tanto agonistico, perché mi pare che il Giro finora non abbia detto un granché, però è stata una settimana di aspre polemiche e purtroppo una settimana di tragedie e di lutto. Pier Augusto Stagi dal Giro, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Senti, prima di parlare della tappa di oggi, che ha visto vincere Oscar Gatto, con Contador che è arrivato secondo, quindi sta cominciando a scaldarsi per i momenti cruciali di questo Giro, di cui resta comunque il grande favorito nonostante quanto ha fatto ieri Scarponi. Ebbene, prima di parlare di questo, ti voglio chiedere, così a bruciapelo: è un Giro pericoloso? No, non è pericoloso al momento, non è pericoloso. C'è ancora in discussione la discesa del Crostis, che la tappa dello Zoncolan. Stanno valutando il da farsi. Mauro Vegni, braccio destro di Angelo Zamenà, mi ha dato a visionare personalmente l'altro giorno questa discesa. Domani sera, dopo la tappa dell'Etna, ci sarà un incontro con quattro rappresentanti del Giro d'Italia, con Contador, con Nibali, con Scarponi, e Zomignano illustrerà loro le decisioni e comunicherà loro e comunicherà credo a tutta la carovana se questa discesa sarà fatta. Per il resto al momento, ti dico anche la tappa di oggi, strade molto belle, una ottima attenzione da parte della Polstrada, certo quello che è successo lunedì scorso ha scioccato e si percepisce ancora all'interno della carovana, non c'è quella serenità, quella leggerezza, quella voglia di fare festa che è solita di un avvenimento sportivo come il Giro d'Italia e del Giro d'Italia in modo particolare. Certo, poi sarà la corsa che entrerà nella fase calda, che entrerà con i suoi protagonisti, credo proprio già anche da domani, perché domani è veramente una tappa difficile, è la prima vera tappa di questo Giro d'Italia con la doppia scalata dell'Etna, e poi si spera appunto di apprezzare solo lo spettacolo. Però credo che dopo questa prima settimana non si può dire che i corridori abbiano rischiato molto. Sì, sì. Si rischia tutti i giorni perché comunque si è sulle strade e ahimè basta un attimo di disattenzione per trovarsi per terra e cadere da una bicicletta a 40-50 all'ora non è mai piacevole. No, è chiaro. Tappa di oggi per Augusto con Oscar Gatto che vince davanti a Contador. Da quest'anno mi sto scoprendo, sì, sto sempre scoprendo in me qualcosa di nuovo. Ho visto che tengo molto bene nelle salite brevi e così nei finali impegnativi. Sicuramente ci riproverò, ora che vedo che insomma mi porta bene partire così dal lungo, sicuramente ci proverò anche in futuro. Devo sicuramente ringraziare Luca Scinto, a cui dedico sicuramente questa vittoria, perché è stata la persona che ha creduto in più in me in questi anni da professionista e ancora continua a crederci, quindi grazie Luca. Questo era il vincitore di oggi, Oscar Gatto, che promette di riprovarci. Che tappa è stata? È stata una bellissima tappa, sia a livello proprio paesaggistico, perché abbiamo costeggiato il Mar Tirreno, un paesaggio eccezionale, da Sapri a Tropea incantevole. Poi molto emozionante, perché il finale di Tropea non è facile, non è semplice, infatti ne ha approfittato Oscar Gatto, un corridore brevilineo proprio scattante come il suo cognome, e a 1500 metri veramente ha messo tutti nel sacco, ma ancora di più ha messo tutti nel sacco Alberto Contador, che nessuno si aspettava di vedere lì davanti. Lui molto candidamente ha detto: oh, la mia squadra ha lavorato talmente bene, mi ha tenuto tutto il giorno nelle prime posizioni, mi sono trovato lì, a quel punto ho voluto onorare e ringraziare i miei compagni di squadra con un finale degno della mia fama, e ha ottenuto un secondo posto e quindi anche 12 a buoni, più 12 secondi da buono, più 5 secondi perché è arrivato una manciata di secondi davanti al gruppo dei migliori regolato da Alessandra Fettacchi, sempre più maglia rossa della classifica a punti, e così adesso è risalito in quinta posizione con Tadora solo 13 secondi dalla maglia rosa, che resta per il quarto giorno consecutivo sulle spalle di Peter Winning. E domani appunto c'è questo Etna. Ecco, l'ultima cosa che volevo chiederti: questo Etna, sappiamo bene quali siano state le condizioni di questi giorni, quali sono le notizie attuali? C'è qualche rischio, qualche pericolo, qualche punto di discussione insomma sulla tappa di domani? No. Al momento non ci sono più punti di discussione, anzi sono state ripulite le strade, il fondo stradale da entrambi i versanti dell'Etna, dalla protezione civile in questi due giorni, e quindi domani si svolgerà regolarmente la tappa, la nona tappa di questo Giro d'Italia. Gli sportivi siciliani attendono con impazienza il loro beniamino che è Vincenzo Nibali, anche se lui anche questa mattina ha confermato ai cronisti presenti che lui non vuole vincere la tappa di domani, lui è qui per essere protagonista in tutto il giro e soprattutto sogna la maglia rosa, quella di Milano. Non so se lo dice per scaramanzia, per nascondersi, per lasciare un po' ad altri, soprattutto a Contador, il peso della corsa. Io credo che un pochino reciti la parte, che mi sembra strano, perché Nibali è sì un corridore che sta crescendo molto a livello mentale, un corridore che non si fa prendere troppo dall'ansia, però anche è vero che veramente corre sull'uscio di casa, perché sì, i suoi sono di Messina, e mi sembra strano che lui non così. Ma sai, se uno ha un sogno, voglia far credere veramente di non essere così interessato alla tappa di domani, però forse sono passati per Nibali i tempi in cui, insomma, queste tappe rappresentavano, non dico il clou della stagione, ma comunque un appuntamento importante. È anche pensabile che abbia davvero la maglia rosa nel mirino, e quindi la tappa di domani è solo, al di là delle questioni logistiche, è solo appunto probabilmente una tappa di passaggio. Ti ringrazio Pier Augusto, domani ci ritroveremo ampiamente ancora con il Giro d'Italia. Ricordo, prossimo appuntamento con il Giro comunque dopo il GR delle 19 con Pier Augusto Staggi. Grazie. Voci dal Giro. Intanto io sto guardando Manchester City Stoke, che vale la Coppa d'Inghilterra dopo che Ferguson ha festeggiato il 19esimo titolo del Manchester United oggi pomeriggio, 1-1 col Blackburn, a rigore di Rooney che ha dato il titolo al Manchester. Importante perché in questo modo lo United diventa la squadra più vincente della storia della Premier League, 19 titoli contro i 18 del Liverpool. Adesso Mancini prova a prendersi questa coppa, ma è ancora 0-0 con lo Stoke dopo 64 minuti di gioco. Italo, provincia di Trento, e Ignazio da Napoli sono i primi due ascoltatori di oggi. Italo, buongiorno. Buongiorno, mi senti? Sì che la sento, dica. Allora, volevo intervenire sul fatto increscioso degli insulti rivolti all'allenatore del Milan. Sì. Mi sembra che non ci sia, come si suol dire, attualmente né un sì né un ma. Questi signori che hanno fatto questi insulti devono, per una questione di forma e successivamente anche per una questione sportiva, chiedere le scuse, ma le scuse vere e proprie, perché questi sono esempi da inaccettabili. Sì, sì, sì, non c'è dubbio. Poi è chiaro che non si può obbligarli con i carabinieri, però si possono trarre delle ovvie conclusioni, no? È chiaro a tutti, ma anche a lui, perché è un ragazzo intelligente al di là di tutto. È chiaro a tutti che Gattuso abbia fatto una fesseria enorme, la chiamo fesseria perché siamo in radio e sono le 5:25, ma potremmo battezzarla in altri modi, no? Questa partecipazione al coro di ultra, a parte il fatto che a me non piace mai questa commistione tra giocatori e ultra, nemmeno nei momenti di festa, perché sono per la separazione dei ruoli e delle carriere. Però penso che sia noto anche a lui. Ho trovato peggiori forse le uscite successive dello stesso Gattuso, con quella un giorno dirò che cosa c'è tra me e Leonardo, cose che se vuol dire le dice subito, se no comunque non sono tali, non possono essere tali, anche se è indubbio che i rapporti tra Leonardo e Gattuso, tra Leonardo e i senatori dello spogliatoio milanista l'anno scorso, fossero ai minimi termini o sotto i minimi termini. Queste uscite sono state quasi peggiori, nel senso che, insomma, senza troppa retorica bastavano delle scuse di Gattuso e di Leonardo, cioè di Gattuso e del Milan, perché è il Milan che ci ha fatto una figuraccia pure in questa situazione, e si chiudeva grosso modo l'incidente diplomatico, cosa che nei giorni successivi a quella festa scudetto dell'Olimpico non si è verificata. Quantomeno oggi possiamo augurarci un minimo sindacale di eleganza, anche se non è così scontato, eh? Ignazio da Napoli, buonasera. Salve, buonasera, complimenti per la conduzione della trasmissione. Grazie. Volevo agganciarmi a quello che diceva prima l'amico. Semplicemente questo, che in effetti il coro che hanno imbastito i tifosi del Milan, il signor Gattuso nei confronti di Leonardo, e rappresenta praticamente un atto di inciviltà sportiva. Voglio ricordare che a Napoli, quando il Milan venne a vincere contro il grande Napoli di Maradona, ero allo stadio, al momento del fischio dell'arbitro ci fu un applauso di tutto lo stadio, tutti in piedi ad applaudire il Milan che dimostrava sul campo una superiorità. E' di questo che io condanno in modo particolare questa esibizione di arroganza, perché in effetti il coro dei tifosi del Milan e del signor Gattuso rappresenta l'emblema e lo specchio del loro padrone, quindi no, guardi, succede, dobbiamo dirlo, perché ma non so se rappresenta, guardi, senta Ignazio, di cori idioti se ne sentono in tutti gli stadi d'Italia, Napoli compreso, insomma, no, mi pare è chiaro che ci sono degli esempi storici come quello che lei ha citato, che sono indiscutibili e che sono stati talmente belli che ce li ricordiamo ancora, però di cori imbecilli ne sentiamo in tutti, ma proprio tutti gli stadi d'Italia. Qui non stiamo parlando di cori di tifosi, stiamo parlando di una di una, se vogliamo, inspiegabile, oppure inopinata, oppure sbagliata partecipazione ad uno di questi cori da parte di una, da parte di un protagonista del gioco. Stiamo parlando di questo. Poi i cori non rappresentano nessuno se non il basso livello intellettivo di una pattuglia di persone che vanno allo stadio, no? Semplicemente questo, quindi non credo che i cori rappresentino qualcuno se non chi li canta, ecco, soltanto questo voglio dire. 800 24 00 24, numero verde, a dopo. Nella stessa porta, con la stessa gioia, va a festeggiare con i suoi tifosi dove aveva segnato contro lo United in semifinale. E il City di Roberto Mancini è in vantaggio. Eh sì, ha segnato in questo momento Yaya Touré. Dunque il City di Roberto Mancini, di Mario Balotelli, oggi titolare, si avvicina alla Coppa di Inghilterra, anche se va detto con gli Oasis che ballano in tribuna. Anche se va detto che lo Stoke stava giocando, mi pare, meglio in questa ripresa. Sempre per la cronaca molto rapida, vi do i finali di B al volo. Ascoli batte Siena 3-2, Cittadella batte Crotone 1-0, Livorno batte Piacenza 1-0, Novara batte Frosinone 2-1, Lempoli vince 1-0 a Porto Gruaro, il Padova vince 1-0 a Sassuolo, Torino batte Triestina 2-0, Varese batte Modena 3-0, Vicenza Pescara 2-2 per le posizioni playoff, Novara 67, Varese 65, Reggina e Torino 57, Padova e Livorno 56, Empoli 55, c'è ancora Pescara 53, dunque mi pare siano ancora diverse cose da scrivere. Saluto e ringrazio invece Aldo Serena, nostro amico e grande campione. Ciao Aldo. Ciao a tutti. Grande campione anche nel saper stare al mondo, visto che stiamo ancora parlando di queste cose, di questi cori, mio caro Aldo. Cosa vuoi, le cose belle si dimenticano subito, quelle brutte invece sì, rimangono. Va detto che comunque, insomma, nell'euforia di una festa, non dico che ci possa stare una stupidaggine come quella, però va considerato il momento, o no? Ma non lo so, io sono un giocatore che è di altissimo livello, che è stato campione del mondo, sì, che è un riferimento anche per tantissime persone, soprattutto ragazzi, secondo me non dovrebbe, anche certo, perché così, insomma, Leonardo ha sempre trattato tutti abbastanza con una cortesia e una dignità. Sotto questo profilo, secondo me, Leonardo non è attaccabile. Perché... No, non è attaccabile, ma secondo me non lo è neanche per aver scelto di andare ad allenare l'Inter. Detto tra noi, è stato, se vuol fare l'allenatore, viene mandato via dal Milan, arriva il club campione del mondo e dice: vuoi la panchina? E lui, se vuol fare il professionista, dice: ci vado. Se vogliamo guardare le cose in maniera un po' razionale, poi se vogliamo vederle come fanno molti da tifosi, possiamo fare anche altri discorsi, ma quanto tu dici non fa una piega, secondo me, no? Perché va bene l'emotività, va bene l'adrenalina, però bisogna anche usare un minimo il cervello anche in quelle situazioni. Aldo, però vorrei parlare di calcio e di questo Milan, che il titolo l'ha meritato tutto quanto, si dice molto, è da tutte le parti, è lo scudetto di Allegri, condivido. Secondo me la chiave sta nel fatto, ti ricordi, abbiamo parlato mille volte di Milan Ibra dipendente, ecco, il Milan è riuscito ad affrancarsi dalla dipendenza da Ibrahimovic a costruire una difesa che di gol non ne ha beccati più. Eh sì, non è solo merito dei due strepitosi Nesta e Thiago Silva, perché Allegri gli ha costruito davanti una protezione notevole, ha capito che doveva forzare quella che era la natura del Milan, che è sempre stata quella del possesso palla, dei grandi giocatori tecnici a metà campo, e doveva creare dei giocatori nel mezzo che potessero rendere impermeabile centralmente la propria retroguardia, e lo ha fatto con Van Bommel, lo ha fatto con Boateng, lo ha fatto con Gattuso quest'anno, che sotto il profilo, appunto, del gioco è tornato lui. L'anno scorso l'infortunio lo aveva condizionato e probabilmente aveva tanta rabbia dentro, non si sentiva valutato forse bene da Leonardo, ma c'era anche una ragione, insomma, lui non ha reso come quest'anno. Sì, certamente. Poi, detto questo, i rapporti tra Gattuso e Leonardo, tra lo spogliatoio, tra i vecchi del Milan e Leonardo, erano, dicevo prima, ai minimi termini, ma anche questa mi pare sia ormai cronaca, Aldo. L'Inter invece per parte sua può dare un senso a questa stagione, a Roma in questa finale di Coppa Italia, che vedo tutt'altro che scontata, anche se pare che Zamparini e Rossi abbiano ricominciato a litigare, ma questo quasi non fa più notizia. Può dare un senso alla sua stagione vincendo quella Coppa Italia, a quel punto si potrebbe parlare anche di stagione positiva, certamente rovinata, come ha detto oggi Leonardo, da quella folle settimana dello Schalke. È altrettanto chiaro che poi si girerà pagina, perché questa squadra mi sembra ai saluti, no? Sì, sarebbero tre i trofei vinti in una stagione con un probabile secondo posto dietro a Milan, che ha fatto benissimo, quindi io penso che in generale sarebbe una stagione più che positiva per i nerazzurri, dopo cinque scudetti vinti, dopo la Champions League, dopo una stagione come quella dello scorso anno irripetibile. Però la riflessione è da qui come partirà l'Inter il prossimo anno, se è vero che c'è la riconferma di Leonardo, ecco, con tanti giovani, se l'Inter ha in mente, come sembra, ma un po' dalle ultime notizie sui quotidiani di questa settimana, sembra che vogliano cambiare anche tanto inserendo parecchi giovani, ecco, io un punto di domanda su Leonardo ce l'avrei, perché lui fa l'allenatore da 15 mesi di fatto, certo, e quindi non ha una grandissima esperienza anche sul profilo didattico nel dare una costruzione di un gioco a giovani che si assemblano per la prima volta. Credo invece che sia bravissimo sotto il profilo proprio della gestione degli uomini, e se l'Inter non avrà voglia di cambiare, terrà una base dei vecchi, potrebbe secondo me andare benissimo Leonardo. Se invece dovesse scegliere in altro modo, quindi dare un 5-4-5 su 11 nuovi, soprattutto sicuro, giovani, forse avrebbe bisogno secondo me di un allenatore didattico che sappia insegnare bene una tipologia di gioco. Sono d'accordo con lei, maestro. Senta, l'allenatore della Juventus, visto che stiamo parlando di quello, io continuo a dire e a pensare che Del Neri, Mazzarri, Conte, non ci sia poi una gran differenza. Continuo a pensare che la Juventus avrebbe bisogno di un allenatore, anche parafulmine se vogliamo, di un allenatore che abbia già vinto qualcosa, che quindi conosca la strada per arrivare ai titoli, di un allenatore che possa anche catalizzare, insomma, non dico fare il circense, però che sappia anche tenere in pugno l'opinione pubblica, insomma, anche davanti ad un microfono, di un allenatore di grande carisma. Continuo a pensare questo, Aldo, mi sbaglio? Sì, ma anche perché i tifosi bianconeri sono tanti e ormai sono insoddisfatti da tanti anni, quindi c'è bisogno di una personalità di levatura superiore che sappia anche insegnare calcio, ma che sia anche un ombrello in alcuni casi quando non va bene, come invece a volte sappia anche trascinare. I tifosi secondo i bianconeri sono alla ricerca di una guida. Bravissimo. E quindi non è semplice però reperirlo sul mercato. No, è difficile, i nomi sono pochissimi, la rosa è ristretta, la Juventus in questo momento non è un grande club europeo, al di là dei colori della maglia e del nome, non è un grande club europeo. È una squadra e una società da ricostruire, quindi avrebbe bisogno proprio di tutto questo. Siamo anche su questo punto siamo allineati. Un'ultima cosa, Aldo, tornando a Milan, il voto alla stagione di Ibrahimovic, che forse mai è stato così poco decisivo nella vittoria di un titolo, di uno dei suoi 1000 scudetti. Forse l'anno scorso col Barcellona aveva segnato addirittura di più rispetto a quest'anno con il Milan. Fino a dicembre gli do 9, da metà gennaio lì fino ad ora gli do un bel 4,5 per i suoi atteggiamenti, sia per le due squalifiche che ha ricevuto, ma anche proprio per lo svuotamento fisico che ha avuto. E credo che Allegri dovrà fare una riflessione su questo. È vero che sembra indistruttibile Ibrahimovic, però ormai è più da più di un anno che quando arrivano le partite a febbraio-marzo, soprattutto quelle di Champions che contano, lui un po' quella brillantezza l'ha persa e fa fatica a riprenderla. Ecco perché nella prima parte, da settembre a dicembre, quando ci sono solo 2 settimane forse per chi gioca in nazionale, anche in Champions, per poter allenarsi bene, avrebbe bisogno anche lui ogni tanto di rifiatare in maniera forzata, perché non mi sembra il tipo che sia... Sì. Al quale è semplice dire stai fuori oggi perché devi riposare. Aldo, è sempre un piacere, ti ringrazio. Ciao a tutti voi. Grazie davvero ad Aldo Serena. E torno a parlare con grande piacere con gli ascoltatori. Ricordo Manchester City 1, Stoke 0. Siamo all'84esimo e decide al momento il gol di Yaya Touré. Luca da Pistoia, buonasera. Poi c'è Eugenio da Treviso. Buonasera anche Eugenio, eh? È lì? Ce n'è. Buonasera. Sì, sì, allora Luca, dica. Ma Senta, sempre sulla questione Gattuso, volevo proporre una riflessione un pochino diversa, spostare un pochino l'obiettivo. È inutile stare a ripetere sul comportamento di Gattuso, insomma potrei aggiungere un altro aggettivo deludente. Però la cosa che non mi piace, che mi ha dato un gran fastidio in questa vicenda, come anche in altre, è l'utilizzo delle minimizzazioni a posteriori e delle giustificazioni. E fra queste, quella che non sopporto proprio, non riesco proprio a digerire, è quando viene detto, e l'ho sentito dire da Gagliani per esempio, sì ma è un ragazzo, sono ragazzi. No, cioè, queste sono stupidaggini. Ecco. Stupidaggini. Non sono ragazzi, sono uomini. Arrivano con il procuratore a firmare dei contratti e ci mancherebbe altro, sono uomini, ma non si può tutte le volte che qualcuno combina qualcosa di sciocco, da Balotelli in giù o da Balotelli in su, poi sentirci dire, cioè mi sembra poco rispettoso anche per il pubblico, per l'utenza, chiamiamola la tifoseria, chiamiamole persone che poi non seguono il calcio, comunque utenza, cioè, è poco rispettoso, questi non sono ragazzi, ma risparmiateci questo, ecco, questo solo volevo dire. Sono d'accordo Luca. Eugenio cosa ne pensa? Sì, intanto buonasera a tutti. Buonasera. Sono anch'io abbastanza d'accordo con quello che ha detto Luca. Una cosa, io volevo intervenire su un altro piccolo particolare, a parte Gattuso, che secondo me non so se sia da capire oppure drasticamente da compatire. Però una cosa mi meraviglia, quella curva rossonera che in questi casi, vabbè, gli sfotò ci sono sempre, ci saranno sempre e non mancheranno mai, ma è quella stessa curva che si sono permessi il lusso di fischiare e di insultare un certo Maldini quando ha fatto l'ultima partita in campionato che ha dato l'addio alla maglia. Guardi, lì erano vicende diverse, Eugenio, lei le conoscerà. D'altra parte Maldini è uno, e questo è uno dei punti su cui lo rispetto maggiormente, è uno che a questa gente non ha mai dato molta corda, è uno che in mezzo ai tifosi a cantare anche cori diversi e meno offensivi di quelli che abbiamo sentito da Gattuso non sarebbe andato, è uno che non ha mai avuto molta familiarità con questa gente, come è giusto che sia. Dunque io credo non è la curva del Milan che ha fischiato in quel giorno in maniera molto volgare Paolo Maldini, ma è stata una parte della tifoseria che per anche altre storie collaterali con Maldini aveva rotto i rapporti da tempo, quindi non direi la tifoseria del Milan, una parte specifica della curva, mettiamola così. Ringrazio voi, mi fermo per il traffico e vi aspetto subito dopo. Manchester City 1, Stock 0, primo titolo inglese vicino per Balotelli e per Mancini. A dopo. Sto guardando le immagini della festa del Milan perché sto guardando la finale di Coppa di Inghilterra. Mi dicono dalla regia che insomma i giocatori del Milan hanno raccolto ed esibito uno striscione con scritto 18 e tutti sul campo, con riferimento a quelli che Mourinho un giorno chiamò gli scudetti della ritirati in segreteria. Ma questo insomma fa parte del gioco, insomma non è una parata religiosa, non è una processione, è una festa scudetto, e quindi insomma se si rimane nei limiti della civiltà il calcio è il Palio di Siena, dunque non pretendiamo. Ne parlavo domenica scorsa con una simpaticissima ascoltatrice di Genova, genoana e anti-sampdoriana, il calcio e lo sport, cioè il calcio è anche questo, è il tifo, non si può chiedere al tifoso di essere uno sportivo perché sarebbe sbagliato. Voglio farvi sentire un'altra voce di oggi ed è dell'attuale e ancora per poco, a parer mio, allenatore del Napoli, Walter Mazzarri. Per quanto riguarda i tifosi, io credo che, l'ho sempre detto, io ho grande rispetto per i tifosi, e sono molto, secondo me, intelligenti, capiscono le cose da soli, e soprattutto mi sembra che mi sembra sia giusto sottolineare che al di là delle querele, al di là dei discorsi, il Napoli deve venire soprattutto a tutti, e domani ci deve essere un bel suggello, una grande festa insieme ai nostri tifosi, ai nostri ragazzi, che sono stati gli artefici principali di questa bellissima cavalcata. Tutto il resto non deve interessare, come credo sia giusto, di godersi questa annata da incorniciare. Se volete anche dire che è una cavalcata e dura da 2 anni da incorniciare, e quindi quale occasione più bella di festeggiare tutti insieme ciò che abbiamo fatto, ripeto, tutti insieme. due anni da incorniciare, non uno, sottolinea Mazzarri, vinto tutti insieme, giocatori principali artefici, insomma questo è quello che ha detto oggi. Io vorrei che un commento a queste dichiarazioni venisse da una voce molto nota e molto amata dai tifosi napoletani di Mediaset Premium, è Raffaele Auriemma. Ciao Raffaele. Ciao, buonasera a te e ai tuoi radioascoltatori. Che dici di queste dichiarazioni d'addio, se vogliamo, di Mazzarri o no? Ma io non so perché si stia diffondendo questa idea che Mazzarri possa andare via, ma per andare dove poi? Perché la Juventus non mi pare che... Cioè, a Mazzarri come soluzione, ma proprio la terza probabilmente, e tra l'altro nel caso dovrebbe essere Mazzarri a liberarsi del Napoli, e De Laurentiis ha già detto che non lo libererebbe, ma io credo che sia un problema inesistente, perché Mazzarri negli ultimi tempi ha voluto porre l'accento su di un aspetto per il quale credo che sia necessario fare chiarezza, sì, per il bene del Napoli, perché sì, voglio sintetizzarti in breve, anche se il ragionamento è molto ampio. Mazzarri due mesi fa ha detto a De Laurentiis: l'anno prossimo, se andiamo in Champions, il mercato dovrà cambiare, cioè non più un mercato a 0 euro come abbiamo fatto finora, ma servono investimenti concreti per avere calciatori esperti quali finora non abbiamo avuto, e guarda caso l'avessi l'altro ieri ha dichiarato che il Napoli lo scudetto l'ha perso probabilmente per inesperienza. Quindi è come se Mazzarri avesse messo De Laurentiis di fronte alle sue responsabilità. Ora servono investimenti da Champions, altrimenti io non resto, ma rimango a casa, non è che vado a un'altra società. Ma guarda, c'è anche da dire che insomma, per un allenatore è chiaro che Mazzarri dice: se facciamo una squadra più forte io ci sto. Non so se De Laurentiis aveva la possibilità di fare una squadra più forte o di fare acquisti da Champions. So invece per certo che con questo Napoli ha ottenuto il massimo possibile. Da un certo punto di vista fa il discorso che ogni allenatore fa, cioè sono arrivato in cima alla montagna, da adesso posso solo scendere. Ma io non credo che il Napoli sia arrivato in cima alla montagna. Il Napoli sta ancora scalando la montagna, perché con una squadra come quella di quest'anno, se tu gli dai 4 rinforzi reali, io non dico Ibrahimovic, Robinho, Cassano e Van Bommel che ha preso il Milan, ma se ne prendi un paio così e altre due di supporto, il Napoli potrà lottare anche l'anno prossimo per le primissime posizioni, che poi è quello che vuole la piazza. Sì. Quindi non è che Mazzarri è tutto al capolino, ma poi per andare dove? Alla Juventus, dove ci sono solo detriti, macerie, e dove anche il rinforzo è tutto da capire come sarà e con quali risorse verrà effettuato. Certo. Oggi come oggi Mazzarri, che è uno molto pragmatico, credo che non vede la Juve come una possibilità migliore del Napoli. Il Milan, l'Inter lo sarebbero certamente, anche la stessa Roma, i cui contorni non sono ancora definiti con l'arrivo di Di Benedetto, non è una società oggi migliore del Napoli, anche alla luce e alla vigilia di questo fair play finanziario che dovrà necessariamente vedere i grandi club ridurre le capacità di poi spesa. Poi vediamo se questo succede davvero, perché i miei dubbi ce li ho e me li tengo. Raffaele, ti ringrazio, buon lavoro a te. Buon lavoro a te, domani sera c'è Napoli-Inter, io tremo al pensiero che Lavezzi mantenga fede alle sue promesse, cioè quello di indossare la minigonna in caso di Champions League, davvero roba da bollino rosso. Per chiudere, io vorrei collegarmi con Dario Ricci, che ha la festa del Milan. Magari mettiamo in sottofondo regia, mettiamo in sottofondo il rap di prima, mettiamolo. Vi piace? Un po' trash, ma ci sta oggi. Dario Ricci, dove sei? Allora Carlo, se in Piazza Duomo è il tempo della festa, io sono qui a San Siro, fra poco sarà festa, adesso è il momento della birra e della salamella per il popolo rosso-nero che si sta avvicinando allo stadio per questo grande Milan-Cagliari, per questa grande festa, chiaramente la partita sarà solo vernissaggio. Allora sono qua con Claudio e Stefano, due tifosi rossoneri. Tra l'altro Claudio era proprio in curva sabato all'Olimpico e ha filmato Gattuso che faceva il coro, il famigerato coro su Leonardo. Allora, Claudio, battuta d'obbligo, insomma, Leonardo Gattuso. Ah, diciamo, allora, c'è solo Rino Gattuso, non si sputa nel piatto dove si mangia per 13 anni. Non dico altro, solo questo può bastare, penso. Allora, ci siamo capiti, Carlo. Invece Stefano, allora, è grande festa di questo Milan, il protagonista del campionato, lo scudetto d'Allegri, di Pato, di Ibrahimovic. Chi l'ha vinto, non mi dire la squadra, non essere troppo buonista. L'ha vinto sicuramente Allegri con le sue scelte, ma il popolo rossonero che ha seguito la squadra durante tutta la stagione, direi. Perfetto, dai, perfetto. No, Dario, devo chiudere. Mi piacerebbe sentire di nuovo altre voci di questo, compreso il piatto in cui ha mangiato, che però poi gliel'hanno portato via. Dunque, insomma, se vogliamo dire, non è che poteva star lì a aspettare la portata successiva. Mancini vince la Coppa d'Inghilterra 1-0, gol di Leatura, è partita finita. Vi saluto, ci sentiamo domani dalle 4:30 alle 7. Riprendiamo tutte queste discussioni. Giorgio Luca in redazione, Fabio Cantadore in regia, domani.